Mauro Peggio alla batteria. Garibaldi fissa il mare e tira un sorso di rum che di Marsala a Quirana non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde già Bahia, che malinconia. E se una samba sia suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per le strade di Rio. Cappello a larghe falde sotto un poncio marrone, e sotto il poncio Anita batte un corazon. Posso darti solo amore, tutto quello che vorrai, posso darti solo amore, quando me lo chiederai. Chirala, viva Garibaldi, uè paesa, fuoco a volontà, che clamor, passa i Garibaldi, sì signor, e conquista il dolore. Garibaldi è ricercato in tutti i mari del sud, ma non si può tagliare la barba per questioni di look. niente, dice Peppe quando gioca al Brasile. Si va a vederlo in Italia. Pensaci Peppe, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai. Posso darti solo amore quando me lo chiederai. Chiara dei vagari baldi, e paesa, fuoco a volontà. Sai Garibaldi, sì signor, è conquistato. Grazie. Grazie.